visto che Gian Andrea ci parlava di prevedere, io ho detto vabbè, possiamo parlare di cose simili a prevedere, comunque nel campo dell'alternativo. Quindi questo è il titolo: sistemi di persistenza alternativi. Io ho preparato una decina di slide, quindi non è che ci sia moltissime cose, però possiamo vedere poi dei pezzi di codice, soprattutto se vi interesserà la cosa, mi spero. Allora, tutto nasce da quello che viene chiamato impedance mismatch o paradigm cross, cioè dal fatto che il database relazionale, come sapete, si basa su teorie algebriche, quindi teorie matematiche ben precise, insomma ci sono 7 gradi, relazioni, eccetera eccetera. È un tipo di paradigma, quindi è un modo con cui organizzare, sapete, paradigma vuol dire organizzare la conoscenza, no? Quindi il paradigma relazionale permette di organizzare i dati secondo una certa tecnica, un certo sistema. La bellezza del... io non vi voglio fare adesso la cosa sulla programmazione a oggetti, eccetera, sicuramente la sapete già, no? Però la bellezza della programmazione a oggetti si scontra tipicamente con la bruttezza dei sistemi a base di dati relazionali. Poi ci sarà qualcuno per cui sono bellissimi, eccetera, è una questione di opinione. Però quale è bello e quale è brutto non è molto importante. L'importante è che insieme di solito si va spesso a cazzotti, come avrete sicuramente visto nei vostri progetti. Magari siete costretti a mettere le SQL dentro il codice o cose di questo tipo. E la maggior parte delle applicazioni... ah, manca un pezzetto, no? La maggior parte delle applicazioni di business, quindi uno che non fa system development, quindi che fa cose particolari di basso livello, tipicamente fa applicazioni che hanno bisogno comunque di accedere a dei dati, manipolarli e farci qualcosa. Quindi la maggioranza delle applicazioni si scontrano di solito con questo problema, cioè il fatto di attraversare, di passare da un paradigma all'altro e di incontrare questa resistenza che viene chiamata impedance mismatch. Chiaramente potete interrompermi in qualsiasi momento e farmi le domande, così le mie slide durano. Allora, tutta questa storia del paradigm shift però nasce secondo me da un'assunzione, qua entriamo nel campo dell'opinabile, cioè questa è la mia opinione, nasce dal fatto che c'è una forzatura, cioè di solito si utilizza il database semplicemente perché è il tool più semplice e che si conosce meglio e che si vuole utilizzare. Non c'è una vera necessità di utilizzare un database relazionale in molti casi, non sto dicendo che non va mai utilizzato, ma nella maggior parte dei casi viene utilizzato semplicemente perché, come dicono i cinesi, uomo col martello batte sempre gli occhi. Quindi uno sa, c'ho un database relazionale, che ci vuole? Lo installo, sta là, mi faccio le mie tabelle e comincio a risolvere il problema. Non voglio entrare in tutti i dettagli su perché partire da una base di dati relazionale può portare a una cattiva progettazione, eccetera eccetera. Quindi questo... poi ci sono diverse scuole di pensiero, quindi c'è chi potrebbe essere d'accordo, chi no, si potrebbe sorgere un interessante dibattito, però non è questa la questione. Siamo qui per parlare quindi di sistemi di presenza alternativi, poi uno può scegliere di usarli in diverse situazioni, quindi la scelta sta a voi se utilizzare o meno un sistema di persistenza alternativo oppure rimanere, diciamo, nel mondo dorato e sicuro dei database. Quelli che vedete lì elencati sono i sistemi con cui di solito si evita il paradigm shift, quindi io penso di averli elencati tutti. Se vi viene in mente qualche cosa, io edito la slide velocemente. Quindi il primo e il più banale è non usare un sistema di persistenza del tutto, poi vedremo che cosa vuol dire. L'altro, che è il più usato, è quello di usare un sistema di mapping, quindi un qualcosa che si occupi lui della complessità di attraversare il paradigma, quindi insomma Hibernate è quello che oggi va più di moda, quindi lo dico così siamo tutti contenti. Ho detto anche si può invece usare un database a oggetti, quindi non in questo caso evitare proprio il paradigm cross, quindi rimanere nel paradigma oggetti e usare un database a oggetti. Cioè qualcuno ha usato un database a oggetti qui? Adesso restringiamo ancora per fare una cosa seria. No, perché era imposto. Basta. Comunque la società che ha fatto accordi con la verità è questa. Poi c'è usare un database gerarchico, sai, database reticolari, relazionali e gerarchici. Esistono ancora, poi vedremo perché. Oppure, che è un po' l'argomento, quello di cui vogliamo parlare, usare un sistema di persistenza di basso livello, quindi abbassare un po' chiaramente le nostre quello che ci aspettiamo dal sistema di persistenza e fare delle cose un po' di più basso livello, quindi salvare degli oggetti tipicamente basati sulla serializzazione, che è un po' quello che mette in comune tutti questi sistemi e anche prevede, più poi già Andrea vi farà vedere tutti i dettagli, i trucchetti, giusto, no? X and free, X and... Allora, la prima cosa è non usare un sistema di persistenza del tutto, questo è un po' uno scherzo, no? È una slide così. Però, quindi usare soltanto le collection, eccetera, che però non è neanche tanto uno scherzo, perché se ci pensate, cioè almeno a me mi è capitato di trovare dei software in cui si usavano dei database relazionali semplicemente per le configurazioni o cose di questo tipo. In questo caso ci sono un sacco di soluzioni, dai file di properties a usare le API, le preferences, non so se qualcuno ha mai utilizzato qui le preferences API, che mi sembra che sono state introdotte in Java con la 1.4, che sono un buon modo probabilmente di risolvere questo problema, oppure usare dei file XML, insomma file di properties, file XML, eccetera. Nei file XML c'ho scritto pure string, perché anche quello va di moda, no? Quindi string lo fa lui e non vi dovete stare voi impazziti. Oppure mettere la configurazione su LDAP, che è un'altra cosa abbastanza utilizzata. Quindi queste sono un po' tutte le opzioni che ci sono. Ok? Vabbè. Però questo diciamo che è un po' una forzatura, perché quando uno persiste delle configurazioni non è proprio, diciamo, quello che si intende con sistema di persistenza, però è un lato, un piccolo pezzettino di un sistema di persistenza. Siccome l'ho visti software che sprecano database relazionali per fare sta cosa, ci sono modi molto più semplici per farlo in maniera anche più efficiente, Non sto parlando di più semplice e basta. L'altra soluzione, sempre quella più usata, ma oggi è quella un po' più usata da tutti, è quella di dire: vabbè, ma che me ne frega, perché io ho il mio fantastico framework che fa lui il mapping e quindi non mi preoccupo di niente. In realtà ti preoccupi di quello, di quell'altro e pure del framework, perché insomma se l'avete usato non è che sia proprio così, però c'è comunque, c'è una semplificazione, no? E non è questo di cui parleremo, anche questo non è quello di cui parleremo. Questa slide si esaurisce prima, quando ho chiesto chi l'ha usata lui per fare una cosa seria, neanche, quindi finisce così. Sta storia dei database oggetti, io ho sempre sperato che prendesse piede così da eliminare proprio questo problema, ma la realtà dei fatti, non so perché, non è che ci sia una spiegazione, però ci sono database oggetti anche costosissimi, eccetera, ma praticamente nessuno li usa per chissà quale motivo. Insomma, ci stanno tutta una serie di motivi, però sarebbe argomento di un'altra discussione. Magari perché erano costosi, anche poco conosciuti, nessuno si fida veramente, i database administrator sono più economici, quindi conoscono il paradigma relazionale. Comunque di fatto database oggetti ce ne stanno molto pochi in circolazione, quindi anche la soluzione object database, che è comunque una soluzione probabilmente ottimale, perché in quel caso c'è un database vero, c'hai anche un vero linguaggio di interrogazione, c'è un sistema transazionale, c'è tutto, però non si sa perché non viene molto usato. Database gerarchico, chiaramente non esistono più i database gerarchici nel senso scolastico del termine, però c'è LDAP. Quindi LDAP non è altro che un sistema gerarchico che è perfetto per le configurazioni anche a livello enterprise, ma potrebbe anche essere utilizzato per altri contesti, tipicamente quando avete degli oggetti che hanno un rapporto molto alto di vetture e scritture, perché sapete che l'LDAP è alla fine un database. Chiaramente io quando dico database sto usando la parola precisa, cioè non database relazionale, no? Quindi database nel senso di sistema per persistere dei dati e offrire uno strato per accederci. Quindi l'LDAP è un database ottimizzato per le letture. Quindi se avete un sistema in cui ci sono tantissime letture e poche scritture, si può pensare di utilizzare direttamente il database, che si sposa pure un po' meglio con gli oggetti, non benissimo, ma si sposa sicuramente meglio con gli oggetti rispetto a un database relazionale, perché se ci pensate gli oggetti di per sé sono un modello gerarchico, quindi un database gerarchico fa meno a cazzotti. Domande? Se il cellulare mio l'ho scordato acceso. Aspetta che devo essere a Marco. Non posso. Eh? Macrolombo non riuscirà mai a toccare. Allora, quindi queste sono un po', abbiamo esaurito tutte le opzioni classiche, diciamo, le opzioni per scansare il database relazionale, quindi non usiamo proprio un database relazionale e troviamo una cosa alternativa. Adesso entriamo un po' invece nelle cose veramente alternative, cioè ci dovete avere proprio coraggio per usare una soluzione di questo tipo in produzione, che è poi l'argomento, no? quello di cui dobbiamo parlare oggi. Allora, quello che succede, che molto spesso potrebbe bastare, insomma, deve poi valutare i suoi casi, quello che serve è avere una hash table persistente, insomma, almeno a me ho sempre sperato di avere, perché non ho una persistente, non posso fare new persistent hash table e poi ci pensa lui, no? Mi salva in qualche modo, mi serializza gli oggetti, io faccio delle, gli chiedo per chiave l'oggetto, lui me lo restituisce, non ho il boundary della memoria, perché quello è persistente, ci pensa lui, fa il paging in RAM e tutte le cose lì, e mi risolve i problemi. Cioè, almeno a me spesso, non so a voi, ho sperato di avere una hash table persistente. Vi è mai capitato di sperare di avere una hash table persistente? Ecco, allora, adesso vedremo alcuni esempi di hash table persistente. Allora, in ordine di semplicità, queste sono le soluzioni che ho trovato io, poi magari ce ne sono anche altre soluzioni. Anzi, se qualcuno ha qualche altra soluzione me lo dica, perché è un argomento che mi interessa parecchio. Allora, quelle sono le alternative, le ho messe in ordine di semplicità. Allora, si può usare il file system direttamente, poi vedremo come, c'è Prevail, su cui ci illuminerà Gian Andrea, c'è SwigomDB, che non lo potete conoscere perché l'abbiamo inventato l'altro ieri, e il nome è una cosa così simpatica, c'è JDBM, qualcuno lo conosce? Qualcuno ha usato JDBM? Ok, poi c'è BerkeleyDB, la Java Edition, qualcuno l'ha usato? Quello vecchio, so, quello c'è. Ok, allora, adesso inizia la discussione. Vediamo un po' di soluzioni. Allora, la soluzione, questa è in assoluto la soluzione più semplice. Non è detto che la soluzione più semplice poi sia necessariamente quella più stupida o quella più ingenua, in alcuni contesti potrebbe addirittura essere la soluzione migliore. Questa è la soluzione più semplice. È un po' naif, però in qualche contesto è ottimo. Allora, serializzare un oggetto, per esempio in XML, ma non è detto, insomma, serializzare un oggetto e salvarlo sul disco con, quindi avere un mapping, un oggetto, un file, dove la chiave di ricerca è il nome del file. E uno dice, beh, la verità è che gli ultimi file system, soprattutto file system moderni come Riser, non so se avete provato, internamente sono sofisticati quasi quanto un database, quindi quello che loro fanno quando scrivono i file dentro le directory li gestiscono con dei DB3 e hanno dei tempi eccezionali di ricerca. Non hanno tutta una serie di colli di bottiglia, adesso non entro nei dettagli, tra l'altro neanche li so delle differenze tra Riser, Ext o NTFS, ma insomma Riser, io sul mio portatile ho gestito una directory con 10 milioni di oggetti e mi faceva una lookup di un oggetto qualsiasi in qualche millisecondo, che sfido qualsiasi database a fare sta cosa. Quindi, quando si può usare una soluzione del genere? Si può usare una soluzione del genere se avete Riser, perché se non avete Riser non funziona proprio così bene, insomma. Se siete sicuri che la macchina su cui gira ha un file system come Riser, potete pensare semplicemente di usare una directory come il database, tutti i file che ci stanno dentro buttati là, fare una lookup, quindi proprio una lookup con, cioè aprire il file con find by name e cose di questo tipo, e vedrete che ci mette pochissimi millisecondi perché usa il suo binary tree per andare a cercare il file. I problemi di questo approccio, anche se avete Riser, sono che può essere scomodo distribuire il database, perché dovete fare un mega zippone magari con un milione di file, comunque ci mette un sacco di tempo anche su Riser a fare uno zippone di un milione di file, perché sono comunque un milione di file e quindi vi date tutta una serie di overhead eccetera. Però è una soluzione praticabile, fra l'altro ho scoperto proprio l'altro giorno parlando con un amico che l'ha utilizzata in produzione, Renzo ne dovrebbe sapere qualcosa, e insomma, Poi se ci pensate, no, è il sistema con il quale si sono sempre, i mail server hanno sempre fatto cose di questo tipo. Se non avete Riser, ma avete un sistema, un file system più limitato, ci sono un po' di trucchetti, quindi si possono mitigare un po' i problemi dei file system meno moderni, per esempio facendo hashing, quindi facendo dei livelli di directory, quindi non mettendo tutto nella stessa directory, ma facendo delle sotto directory, quindi n livelli, in modo da diminuire il peso che date al sottosistema di gestione dei file, che è limitato. Se non c'è Riser, se c'è Riser non c'è alcun vantaggio a fare una cosa del genere, perché fa tutto lui. Ok? In questo caso, quindi se potete fare una cosa del genere, può essere comodo, se non avete problemi di spazio, se realizzare un oggetto direttamente in XML. Quindi invece che usare, che fare uno stream di byte, che è un po' brutto da leggere, lo potete serializzare con Xtreme, non so se l'avete mai utilizzato, che è un package molto carino, che non fa altro che, dato un oggetto, genera un XML e dato quell'XML ritorna indietro all'oggetto. Quindi fa proprio una serializzazione, però la fa in XML, quindi è facile poi da leggere e da intervenirci sopra anche a livello della classe. Quindi diciamo che in una situazione ideale c'ho Riser, non ho problemi di spazio, ogni oggetto mi diventa un file XML, il nome e la chiave stanno tutti sotto una directory. Fra l'altro questa soluzione si può anche ampliare, quindi ci si può costruire anche sopra qualcosa in più. Come mi ha raccontato l'amico, questa è una cosa che mi raccontava proprio l'altro giorno, Riser è molto potente anche per quanto riguarda i metadati. Quindi si può usare Riser per salvare dei metadati sugli oggetti. E a parte questo, si può, anche a prescindere dai metadati, si può sicuramente utilizzare Lucene, che è un motore di ricerca, è il motore di ricerca open source, sia per Java che per altri linguaggi, insomma non ci sono alternative. Si può usare Lucene per indicizzare sugli altri campi, quindi oltre a fare l'hashing soltanto dell'oggetto, si possono anche fare, se si utilizza Lucene, che fra l'altro è molto semplice e potente, si possono fare anche delle ricerche probabilmente anche più potenti di quelle che si possono fare con un database relazionale. Chiaramente non potete fare magari join e cose di questo tipo, però ci si può organizzare. Quindi questa è una soluzione che, per quanto apparentemente naif, in alcune situazioni potrebbe addirittura essere pure quella più performante. Insomma, io dico che 10 milioni di record della ricerca in pochi millisecondi non la faccio con nessun altro sistema. Quindi questa è una domanda. Sì. Io ho fatto una cosa del genere non in Java, la generazione della chiave, perché alla fine noi usavamo confidando nella teoria delle probabilità la generazione delle chiave con cui si salva, cioè hanno molta fiducia nella teoria. Beh, però diciamo che 2 alla 64 è bene, non so, dipende da come la fa. Vabbè, ci sono sicuramente i modi di generare delle univoci, però a me di solito quando serve una cosa del genere io l'ID lo conosco a priori, cioè, quando uno fa un nuovo oggetto gli farà con un nuovo ID. Esatto, chiave per 9D. Cioè, un hashtable. Scusa, tu quando fai un hashtable ci metti là la chiave, ce la metti tu, no? Quando faccio un hashtable persistente, la chiave mi dà da tu, mi la genera l'hashtable. Cioè lo stesso problema ce l'hai con un hashtable non persistente. Sì, no. Magari non lo usi, se vabbè, il codice hash è generato in base ai dati dell'oggetto che devi memorizzare. E questo è la ricerca di più. Però la chiave mi dà tutto. In questo momento, in questo sistema tu non c'hai bisogno dell'hash, no? Perché stai in un B3. Il nome del file viene usato per fare, se tu fai la ricerca, il sistema del B3 interno del pezzo. Quindi è più corretto. Sì. Però lo fa il calzista. Però la chiave la gli date tu. Oppure se la vuoi generare, se usi un sistema per generare, qualsiasi sistema. Non ci sono differenze. Ma il tempo di risposta è quello che la velocità di ricerca c'è. Ecco, Riser è eccezionale. Il giro che fa poi per recuperare il file, leggerlo e per serializzare all'indietro, comunque nella totalità dell'operazione, non è quello utilizzare come oggetto all'interno dell'applicazione. Quindi l'equivalente, se vuoi, della select su DB, eventualmente la conversione di un oggetto. qua la questione è come si realizza l'oggetto. Cioè, sicuramente il collo di bottiglia non è file system con Riser. Con Riser è praticamente istantaneo, cioè te lo dice subito dove sta sto file. Tu gli chiedi dammi il file, si chiama Giuseppe, e lui te lo dà immediatamente, anche fra 10 milioni di righe. Poi a quel punto lo devi tu deserializzare. Chiaramente dipende da quanto spesso fai questa cosa e da come lo serializzi, poi devi fare delle ottimizzazioni e comunque c'hai il collo di bottiglia, in quel caso diventa l'IO, ma non l'IO per quanto riguarda il lookup, ma l'IO proprio per leggere lo stream. Però tu su questa cosa ci potresti ricostruire delle cache, insomma, tra l'altro hai anche i database, hanno lo stesso problema, no? In qualche modo serializzano i dati sulle tabelle e ti devono riportare indietro, quindi se tu poi hai questo problema devi minimizzare l'accesso al file system, ci stanno, però i sistemi sono gli stessi, anzi sicuramente è anche più facile realizzare una cache con una struttura di questo tipo che con una struttura tabellare. Comunque questo problema ce l'avranno tutte le soluzioni tra virgolette che vedremo dopo, hanno tutte questo problema. Anche l'utilizzo di Lucene in questo caso insomma ci sta proprio bene, si può chiaramente utilizzare in tutti gli altri contesti, si può utilizzare anche Lucene e avendo anche un database relazionale, cosa di cui non parleremo, ma ci sono diversi progetti che utilizzano Lucene e un database relazionale insieme, quindi utilizzano Lucene per fare tutta una serie di cose comode. Per esempio mi viene in mente Jira internamente ha un database relazionale ma c'è pure Lucene. Prevail, qua andiamo brevemente perché poi Gian Andrea ci farà vedere tutti i trucchi. Allora, Prevailer è come lo chiama l'autore, che è Klaus Westerfield, spero che si pronunci bene, si pronunci così, ma non ne ho idea. Westerfield, quindi abbiamo deciso che si chiama Westerfield. Allora, l'autore si è inventato un po' questa cosa e l'ha chiamato prevalenza, quindi invece di persistenza ha proprio trovato un nome, prevalenza, perché è un concetto un po' diverso. Quindi senza rubare spazio alla sua presentazione, comunque il concetto è che ti tieni tutto in memoria, quindi una normalissima collection, una tua struttura, e quello che ti salvi è la storia dei comandi che hai fatto per arrivare a quello stato. Quindi il tuo database, fra virgolette, qua veramente non è un database, la tua collezione di oggetti è una collezione che tu devi poter ricreare a partire dall'istante zero, rieseguendo uno dopo l'altro tutti i comandi che sono stati fatti nella sua storia. Ovviamente l'istante zero ogni tanto lo sposti in avanti, perché sennò dice si è crollato, si è spenta la macchina, ripartiamo da 7 anni fa, quello ripartirebbe e farebbe proprio questo, lui ripartirebbe da tutti i comandi che lui si salva in un log, li riesegue tutti e te lo riporta allo stato in quel momento, allo stato in cui era crollato. Sta cosa, per quanto assurda, funziona, funziona pure bene. Per spostare l'istante basta ogni tanto serializzare tutto il database, ok? Quindi lui automaticamente, se tu serializzi il database, sposta l'istante, dice mi servono soltanto i comandi da quando ho serializzato tutto in poi. Quindi se uno la notte fa una serializzazione completa, diciamo che al massimo deve eseguire i comandi delle ultime ore, se però la guarda. Il database effettivamente qua il database sta tutto in memoria, non c'è niente su disco se non i comandi, quindi i comandi, un command pattern, devono essere serializzabili, eccetera, eccetera, ma poi sicuramente ce ne parlerà lui. Le prestazioni qui sono eccezionali, perché ovviamente risponde un sistema in RAM. Non c'è proprio niente che può andare più veloce di questo. E ovviamente il limite di tutta questa cosa, e quello su cui si basa la soluzione di Prevailer, è che il costo della RAM continua a diminuire e che oggi si può avere sempre più RAM a prezzo bassissimo, perché ovviamente il vostro database intero deve stare in RAM. Quindi questo è il limite più grosso, poi ce ne sono anche altri, ma sicuramente ce ne parlerà già. Questo è il limite più grosso, nel senso, se avete una situazione in cui potete dedicare un gigabyte della vostra macchina a fare questo, perché comunque costa poco la RAM, e se lo potete fare, probabilmente non c'è una soluzione più efficiente e rapida di questa. Ok? Qua non mi fate domande perché tanto vuole fare da me. Allora, invece, questi sono proprio dei B3, degli algoritmi di B3 implementati in Java. JDBM è un progetto che è arrivato alla 1.0 da molto poco, è sempre stato alla 0 qualcosa, 0.12 per anni. Ultimamente a agosto hanno raggiunto la 1.0 perché c'è stato un cambio del lead developer, e alla fine non è altro che proprio quello che cerchiamo, quello che, quello che io ho sempre cercato, una stable persistente. Quindi c'è una classe che si chiama H3 in cui tu ci scrivi delle cose con una chiave e te le riprendi indietro, e poi fa tutto lui. Quindi si tiene, fa lui la paginazione, fa tutto quanto, scrive sul disco, eccetera. È molto veloce, è più veloce di Berkeley probabilmente, che è quello che vedremo dopo. È molto semplice da usare, non mi è mai capitato di doverlo amministrare molto, però a dir la verità non mi è mai capitato neanche di metterlo in produzione, quindi insomma non so se questa cosa è tanto vero. Quella è la curva. Poi magari di questo vedremo qualche pezzo di codice. Questo progetto, io ho visto un po' il codice e non mi piace perché è il porting di un equivalente progetto Perl, dovrebbe essere, se non sbaglio. Cioè, la storia dei DBM viene cioè è uno standard, penso, di database Perl o cose di questo tipo, quindi cioè, è un porting di una cosa, non so se fosse scritta in C, però serviva ai progetti Perl, vabbè, insomma, se andate sul sito trovate tutta la storia. Quindi il codice è un po' strano, ci sono delle cose che tornano dell'int, allora poi tu usi quell'int per fare un'altra. È codice un po' procedurale. Ecco Marco quello che fa. Comunque, funzione egregiamente. Una cosa che ho trovato è che è un po'. Allora, perché non sono pienamente convinto che questa è la soluzione definitiva per me al mio problema, io sento da anni delle stable persistenti, perché ho visto che comunque, questo però non è detto che sia un problema per voi, è che spreca un po' di spazio. Insomma, ogni oggetto, ho fatto oggetti di prova con 2-3 stringhe dentro, un ID eccetera, mi portano via 2K5, 3K su disco, fra chiaramente la parte di serializzazione e la sua parte di build. E quindi questo non dipende, insomma, se ci metti qualche milione di oggetti, poi ti comincia a diventare qualche gigabyte su disco. È vero che se la RAM è poco costosa i dischi ormai te li tirano in faccia, però non è detto che in tutte le situazioni tu puoi fare questa cosa. Anche perché c'è un altro aspetto: tipicamente queste soluzioni alternative possono essere utili anche quando l'ambiente è alternativo, no? Cioè magari stai facendo un'applicazione che non è che gira proprio sui 15.000 o sui server di processori, magari gira su macchine un po' datate. Anche perché se no, a parte il paradigm shift, potresti anche decidere che non te ne frega niente e ci metti Oracle, no? Quindi di solito queste cose le fai con sistemi un po' alternativi, e quindi magari stai attento anche a questi particolari. Comunque di questo qua poi vi faccio vedere dei pezzettini di codice. L'ultimo, prima della fantastica soluzione che è appena inventata, lo SuiconDB, l'ultimo e più conosciuto è Berkeley. Come sapete, Berkeley è un database, anche questo storico, per l'ambiente Unix. La cosa moderna, che è la cosa che non è storica invece, è la Java Edition, che è uscita da un paio d'anni. Io tra l'altro ho avuto anche occasione di parlare con l'architetto di questa versione qui al Java One di qualche anno fa, e faceva proprio una presentazione che vi potete anche scaricare, mi sa che sta anche sul sito di... quella presentazione tecnica sta sul suo sito, insomma vi spiega come si arriva a fare tutta una serie di scelte per ottimizzare una stable persistente come Berkeley. La cosa bella è che la versione Java è stata un porting 1-1 con la versione C, ma quasi da subito hanno raggiunto prima l'80, 85, 90, insomma oltre il 90% delle performance del database originale, nonostante sia un porting, quindi non è stato pensato per Java, insomma è un porting preso così com'è dal C, quindi ha più o meno le stesse prestazioni. La cosa bella è che la Java Edition, a differenza della C Edition, ti offre anche un po' di cose in più, perché ci sono proprio delle collection persistenti, quindi hai delle classi che sono similissime a proprio Hashtable, ArrayList, hanno altri nomi adesso non mi ricordo, e le puoi usare direttamente, e quelle sono persistenti, quindi praticamente non ti cambia niente. Cioè tu istanzi degli oggetti persistenti, li devi passare, c'è un po' di boilerplate, no? Perché li devi dire dove sta il database, dove li mette l'indice, eccetera, eccetera. Ma a parte quello, dal tuo codice sono delle collection normalissime, già fatte, mentre negli altri casi sei tu che ti devi fare una collection che sotto c'ha JDBM o che sotto c'ha Prevail, eccetera, eccetera. Quindi c'hai delle collection già fatte, loro si salvano, sanno fare tutto loro, tu non ti preoccupi di niente. Anche qua l'amministrazione è vicina allo zero, anche se ogni tanto gli indici di Berkeley sono famosi per corrompersi, però questo è un po' un problema più o meno di tutti di tutti gli indici B3. Forse Berkeley è un po' più soggetto, quindi è successo, cioè almeno a me qualche volta mi è successo con altri sistemi, no? Quindi faccio una statistica personale, ma anche altre persone che ho sentito mi hanno detto che gli è capitato. Anche Subversion, non so se avete mai usato Subversion, che usa Berkeley adesso, ha un sistema alternativo su file system, proprio perché ogni tanto si corrompevano l'indice e quindi si erano stufati. La limitazione però più grossa di Berkeley, vera, altrimenti sarebbe quasi la soluzione perfetta, perché ha il massimo delle prestazioni. Questo qui, tra l'altro, non è un giochino come JDBM o questi altri. Berkeley, dall'ultima versione, è JDI compliant, quindi c'ha un connector, Java connector, che lo potete mettere insomma in contesti enterprise. È una cosa, se considerate noi come Sun, io qui parlo a nome mio, non parlo a nome di Sun, però noi ci facciamo l'LDAP, cioè il nostro LDAP sotto funziona con Berkeley, la versione C, chiaramente, perché insomma è un prodotto che viene da Netscape, quindi c'ha un po' di storia alle spalle, la Java Edition è di un paio di anni. Ecco, diciamo, la limitazione più grossa è che insomma quelli di Sleepycat non è che lavorano ovviamente, hanno fatto quattro classette e l'hanno messo là, questo è un prodotto serio che c'ha tutta una serie di cose a contorno e quindi si vogliono far pagare. Se voi l'applicazione la mettete in un contesto commerciale dovete pagare e costa pure caro, cioè nell'ordine dei centinaia di migliaia di euro per avere una licenza lì, non è che costa 3.000 euro che passa la paura, insomma è una cosa che tipicamente fanno le aziende che vogliono fare redistribuzione, no? Quindi la Sun paga la licenza al limite a Sleepycat e può utilizzare Berkeley all'interno dei suoi prodotti, cioè, però non è una cosa che è proprio alla portata di tutti. Altrimenti se fate un progetto open source ovviamente non c'è nessun problema, perché è in doppia licenza. Quindi questa, almeno per me, è sempre stato il problema più grosso, perché purtroppo non mi capita sempre di lavorare a progetti open source e questo in un progetto closed non lo puoi usare, perché non trovi mai uno che lo convinci per avere una persistent hash table a tirare fuori che ne sono 50.000 euro. Adesso non so esattamente i costi, però so che sono nell'ordine comunque delle decine di migliaia. Poi ci saranno anche delle politiche diverse, se tu vuoi fare la distribuzione al limite so che è oltre 100.000 euro, per altre cose saranno cose più economiche, ma insomma non è proprio una cosa da portare lì. Ok, questo invece è il fantastico SwigumDB, che siccome su un progetto in cui stiamo lavorando proprio in questi giorni per l'ennesima volta mi serviva una persistent hash table, in questo caso però avevo un problema particolare, cioè non potevo contare sul fatto di avere dei dischi molto grandi, proprio la natura del progetto mi impediva di assumere che il disco fosse di qualche giga, cioè potevano anche esserci dischi di soli 4 giga. Siccome JDBM sono oltre 2,5 K per oggetto, insomma se fate i conti con 2 o 3 milioni di oggetti cominciamo a arrivare a riempire quasi il disco solo per questa cosa. Ok? E allora, oltre a tutte queste soluzioni che sono storicamente quelle che ho sempre tenuto, allora il mio approccio è sempre stato questo: se posso evitare di usare il database relazionale lo evito, quindi cerco di inventarmele tutte proprio per poter non usarlo. Se poi proprio lo devo usare si troverà una soluzione per minimizzare l'effetto, una soluzione di mapping o qualche altra cosa. Io ogni volta su ogni progetto, quando mi dicono a meno che non c'è un legacy, no? Quindi sei obbligato, se non c'è un legacy, se decido io dove persistono i dati, il database relazionale è comunque l'ultima delle opzioni, cioè tutte quelle che sono state viste devono tutte non andare bene per poter alla fine metterci un database relazionale. Quindi siccome stavolta mi si scartavano le soluzioni una per un motivo, una per un'altra, allora mi è toccato pensarci sopra e tirarne fuori un'altra. Quindi questa qua ve la presento non tanto perché gliela voglio far vedere, perché spero che mi diate del feedback indietro e mi diciate perché questa è una cretinata, cioè me lo dovete dire voi, perché se a me sembra che oggi l'ho finito, cioè oggi funziona, o lo commetto sul sito che abbiamo aperto al volo, oggi lo commetto, però se qualcuno mi dice guarda non hai pensato a questo, io faccio ecco perché siccome l'abbiamo iniziato l'altro ieri e l'abbiamo finito oggi, sono venute fuori tre classi, funzionamento di JDBM eccetera eccetera, riuscite ad essere qualcosa sotto che non è possibile, cioè, perché è troppo una, posso dire parlarci a chi se ne dice, cioè, è troppo una minchiata, cioè, però che ne so, oggi funzionava, allora vi spiego come funziona sta cosa, è veramente è quasi accade con un esercizio che si potrebbe dare a uno studente all'università da fare in 4 ore, io ci ho messo di più perché sono lento. ho banalmente preso un random access file e ci ho salvato gli stream degli oggetti, quindi uno dopo l'altro, senza separatore, però con in testa una coppia di byte con la lunghezza dello stream. È proprio una cosa accademica, no? Ci hanno provato tutti a fare una cosa del genere. Però invece che mettermi a scrivere un B3 che probabilmente non ci riuscirei o ci metterei 7 anni e funzionerebbe male, ho pensato di usare Lucene per indicizzare l'offset, quindi della chiave rispetto allo stream. Allora sta cosa, ho detto, questa sarà sicuramente una cretinata, però ci provo, ci ho provato, funziona. E la cosa bella, insomma, che oltre a essere fantasticamente veloce non mi occupa neanche spazio, perché gli indici di Lucene sono super ottimizzati e sono molto parsimoniosi. Non so se avete mai usato Lucene, ma una breve introduzione. Lucene è un progetto Apache che è, diciamo, Google meno meno, ma non è un giochino, insomma, è proprio una cosa. La persona che l'ha fatto veniva da anni di lavoro. Pensate che lui l'ha fatto per impararsi Java. Cioè, questo è uno che ha sempre lavorato nei motori di ricerca. Quando uscì Java, io faccio i motori di ricerca, ne faccio uno in Java. Quindi questo è il suo primo progetto in Java, è stato questo, poi da lì è cresciuto. È un motore, veramente c'è di tutto dentro, da algoritmi di stemming, insomma cose sofisticate. Non si sa poi se è Google meno meno o uguale a Google, perché poi nessuno sa effettivamente cosa abbia Google, ma insomma è una cosa veramente sofisticata così. E chiaramente è bravissimo a indicizzare le cose, quindi se tu gli dici indicizzami queste cose qua, lui te le indicizza. Ma fra l'altro ho detto un'imprecisione, Lucene non è un motore di ricerca. Lucene può essere usato per costruire un motore di ricerca, perché Lucene è un engine proprio di indicizzazione di cose. E fra l'altro è fatto anche molto bene, cioè tu gli passi delle stringhe e lui te le indicizza. E la directory la puoi fare in RAM, cioè la directory è dove lui indicizza le cose, no? Gli puoi dire fallo in RAM. Quindi anche per testarlo, per fare le cose con JUnit, è molto semplice. È praticamente un motore di indicizzazione, non è di più. Poi può essere usato per costruire un motore di ricerca, se siete interessati, c'è un progetto che si chiama Natch, che è costruito su Lucene, che è invece un motore di ricerca completo, proprio che si può installare così com'è, e quello diventa un motore di ricerca. Lucene è proprio una cosa di basso livello. Allora, siccome mi era capitato di usare Lucene per un'altra cosa, ho pensato a fare questa, che fino a che qualcuno non me la smentisce, mi sembra una furbata, no? Allora, uso Lucene per indicizzare l'offset. Quindi che cosa succede? Quando tu gli dici hashtable persistente, dammi l'oggetto 47, quella va dentro Lucene e vede qual è l'offset di 47 nel mio blobone di byte. L'offset di 47 è 3823. Quello fa su un random access file, fa seek 3823, trova uno short 20 byte, prende i primi 20 byte, li deserializza e ti ridà l'oggetto. Questo, punto. Fine. Uno bravo lo fa in 4 ore, ci ho messo un po' di più perché mi sono scontrato un po' con gli oggetti serializzati, byte, UTF, tutte queste cose qua, quindi ci ho perso un po' di tempo. Tutto qui. Questo chiaramente non è vero, lo farò presto, però fino a che qualcuno, io sto ancora sperando che qualcuno mi dica guarda che non è possibile che funzioni. La cosa bella è che chiaramente gli stream di byte li posso anche comprimere, quindi posso anche ottimizzare lo spazio dalla parte del blobone di byte, no? Dalla parte di Lucene non c'è bisogno, perché Lucene gestisce l'indice con tutta una serie di file molto piccoli ma che sono paginati, quindi ci sono tutti i filetti, se andate a vedere, che sono di 4K, che poi possono essere combinati, eccetera, dove lui sfrutta ogni singolo byte, quindi non è una cosa che spreca spazio. Cioè, per darvi un'idea, oggi ho salvato 100.000 oggetti e mi occupava 480K di tutto. E, insomma, una bella cosa, si parla di circa 100 byte a oggetto. È vero che erano oggetti, come detto, c'era solo qualche stringa, però con GDBM stavo circa sui 3K con lo stesso oggetto. Qua sto su 100 byte, quindi mi ha risolto un problema. Sì. In caso di eccola. No, la domanda è perché rimasto in sospeso. In caso di modifica di un solo oggetto. Sì. Come aggiorni la base di questo è lo stesso. Allora, questo è uno dei punti che fra l'altro è uno dei limiti che c'è anche JDBM. Ovviamente quando aggiorni un oggetto devi creare una nuova riga e quindi ti rimane un buco nel file. E lo devi compattare ogni tanto. Vanno compattati. Però lo fa anche JDBM, fa la stessa cosa. Tutti i B3 hanno sto limite, perché tu hai il B3 da una parte, poi dall'altra c'hai dove il B3 punta, e quindi queste cose qua in qualche modo di solito ti rimangono dei buchi. Non so se Berkeley ha sta limitazione, non credo, perché Berkeley è un, alla fine un database vero, quindi è molto sofisticato per tutta una serie di suoi disagiovetti, quindi probabilmente Berkeley non riesce a riutilizzare lo spazio e fa le cose. Invece una cosa così semplice ovviamente c'ha questo lì, quindi ogni tanto devi compattare il database. Se hai molte cancellazioni ti cresce e non compatti mai, ti cresce il database a dismisura. È molto simile alla soluzione di creare tanti file, cioè, solo che tu hai creato un piccolo file system in cui ci copri. Esatto. Infatti è proprio la stessa cosa. Il problema è che il file system non è detto che sia smart. Riser lo è. Allora, se c'hai Riser non c'è bisogno di fare questa cosa, ovviamente. Cioè, allora, se tu serializzi gli oggetti e gli dai il nome con la chiave, fai fare tutto al file system e meglio di così hai anche ottimizzato lo spazio, perché c'hai soltanto i byte necessari, tutta la parte di B3 sono affari del file system e poi che esci fai quello che ti pare. Però insomma Riser non è proprio un file system normalissimo. Anzi, Riser è un mezzo matto che fa tutte queste cose strane, le fa solo lui al mondo. E lui sostiene che tutto il mondo non capisce niente, che lui sta avanti, probabilmente è vero, però insomma non è una cosa normalissima avere andato a base come Riser. Quindi c'è chi ci ha fatto sistemi ancora più sofisticati, perché poi Riser aggiunge metadati, quindi al file li puoi dire tutta una serie, cioè lo potresti veramente usare al posto del database con questa soluzione qua. Allora, dove non è possibile ci deve essere una cosa simile. Allora, chiaramente qui c'è un mini file system simulato, no? Senza tutte le cose, però è esattamente la stessa cosa. Infatti ho cercato di portare Riser in gioco. Sì, dico, vabbè, alla Riser non sono capace a farlo, perché Riser lo sa fare solo lui, no? Lo dice lui, non c'è nessuno che pensa. Dico, però che posso fare qua? Allora, B3 non sarei capace neanche a scriverlo, lo faccio fallo sim. Un array di byte ci riesco, con random access file, alla fine ci ho provato e è venuta fuori questa cosa. Quindi vabbè, vedremo. Quindi queste sono le cose. Alla fine abbiamo visto tutte le cose, ora voglio far vedere un po' di codice. Però per riassumere, quando è che si può evitare un RDP? Allora, secondo me, più spesso si può evitare e meglio è. Non so cosa ne pensate voi, però. Quando è che proprio non si può evitare? Se si ha del legacy, vabbè, ovviamente, se vi obbligano a avere una base relazionale, non li convincerete mai. Se non servono moli di informazioni della categoria huge, centinaia di giga o tera, certo, non lo mettete su Prevader, non lo mettete manco su Berkeley, quindi probabilmente siete costretti a usare Oracle o qualcosa di questo tipo. Questi sono i due motivi ovviamente più forti, cioè se ci stanno questi non c'è soluzione. Se nella vostra applicazione non serve fare delle query libere invece, anche se questa qua ci ho messo l'asterischino, perché database oggetti e gerarchici invece hanno questa feature, e nulla vi impedisce di costruirvela voi sugli altri sistemi, no? Cioè, considerate che Berkeley non ha questa feature, però per MySQL inizialmente come store usava Berkeley. Quindi mettere un engine SQL, un engine di linguaggio di interrogazione qualsiasi su Berkeley non è che sia una cosa fantascientifica, e quindi avreste tutte e due le cose. Poi chiaramente una volta che avete il linguaggio ci avete pure l'impedance mismatch, perché ve lo siete fatto da soli, a meno che non avete usato un linguaggio simile a quelli del database oggetti, perché RDB non è un database oggetti vero, proprio perché non c'ha un linguaggio, non c'ha tutta una serie di cose a contorno. Ecco, se non serve partecipare a transazioni GTA, e qua ci ho messo doppio asterisco, perché invece Berkeley nell'ultima release è pure GTA compliant. Quindi Berkeley però 100.000 euro dal limite dei limiti. È quasi, se non state facendo una cosa open source, è quasi inavvicinabile. Ovviamente se si conosce la programmazione a oggetti, e perché poi bisogna fare le cose, cioè quando scendi di livello poi ci possono cominciare a essere tutta una serie di cose antipatiche con concorrenza eccetera, e chiaramente in quel caso siete da soli con il vostro sistema, tranne con Prevailer, perché Prevailer, come ci farà vedere Gian Andrea, si realizza i comandi uno dopo l'altro, quindi non vi può succedere niente. Non avete problemi di concorrenza se lo usate correttamente. Poi se nella vita non si è mai soddisfatti, cioè stare sempre a cercare una cosa un po' diversa per risolvere magari lo stesso problema, stavolta un po' meglio di me. Ok? Ah, se non ci sono domande io vi faccio vedere dei pezzettini di codice. Di Marco Colombo adesso si arrabbierà perché io non apro del pins, però t'arrabbi Marco Colombo se non apro del pins? Però se si dice che da oggi sono grandi tutti che sono la ieri da ieri da oggi quindi non soltanto nel business non prendevo ma anche San Java Studio Enterprise. Io ho IntelliJ però non mi guardate. Ha fatto che? Registrazione San Network. Devi essere iscritto a San Java per me. Aspettate che a questo punto mi attacco pure il mouse. C'ho ancora qualche minuto? Ah sì sì. Attacco pure il mouse perché sennò. Sì. Vabbè, la fame che sta passando. Allora, questo qui è quello che diventerà il SuicomDB, fino a che qualcuno, come so, mi dirà che ho fatto una cretinata, però. Non siete assolutamente niente, no? Immagino. E non sono neanche capace di aumentare il fondo. Che spettacolo intelligente. Allora, grazie. Per quelli che lavorano veramente lo sanno. Allora, chiaramente vi faccio vedere i test. Questa cosa è stata sviluppata in maniera test driven. Quindi vi faccio vedere i test che mi hanno portato a sviluppare questo parto. Allora vi faccio vedere prima cosa lo store test. Ecco, questo è quello che io mi aspetto. Perché non si vede più? Ah, perché quando ingrandisco è soltanto. Però certo. Ok. Lasciate stare le frasi che uno scrive quando delira. Allora, quindi questo è quello che io mi aspetto da uno store persistente, quindi vi dico la directory dove si deve andare a salvare il nome del database, poi ci metto dentro delle cose e me l'aspetto indietro, quindi ci sono degli assert equals, ovviamente prendendo la chiave. Quindi quello è quello che mi aspetto, questo diciamo è il punto di partenza. Allora, alla fine tutta sta cosa si fa con tre classi. Questa classe non ve la faccio neanche vedere perché è un utility class che dato un array di byte mi dà l'oggetto e viceversa, quindi è un serializer per comodità, quindi output stream gestisce queste cose qua. Alla fine tutta la classe sta qui. Quando aggiungi scrive sul file uno short con la lunghezza e poi ci mette i byte, ok? Che vengono serializzati e deserializzati, quindi la put e la get fanno l'opposto. In più ha un oggetto di aiuto che è l'indexer che gli dice indicizzami questo offset. Quindi questo offset che io ho utilizzato, cioè il punto in cui sono arrivato nel database, lo voglio indicizzato perché poi lo voglio cercare. E quindi nella get ovviamente mi faccio dare dall'indexer, mi faccio dare indietro l'offset, faccio un file seek, random access file. Mi sposto quindi di quei byte, mi prendo la lunghezza che sono i primi due byte, poi prendo il buffer indietro e costruisco l'oggetto. Tutto qua. Quindi alla fine l'unica classe che fa qualcosa, diciamo, di complesso, neanche tanto, è questa. Che utilizza l'usin. E non fa altro che quando fate una put, non fa altro che aggiungere un nuovo documento, queste sono proprio classi di Lucene, e aggiunge un field, un keyword, l'ho chiamato ID, lo potrei chiamare come mi pare, con la chiave, e un campo unindexed, quindi un campo che non viene indicizzato con l'offset. Così io posso fare qua una ricerca e gli dico, mi dai gli oggetti che hanno questa chiave? Lui mi dà indietro l'oggetto, mi dà indietro questo documento, e poi gli posso chiedere questo campo qui che è l'offset. Ok? Tutto qua. Come vedete ci stanno più classi di test che classi che fanno qualcosa. Ma anche fai di una nuova entità, se sì. io faccio la put di un esistente non vai a recuperare quello che c'è. No. Quindi si buca. No, perché sennò non sarebbe una step. Fra l'altro potrei anche inventarmi qualcosa di meglio, perché comunque l'usin può indicizzare gli stessi campi, quindi si possono. Cioè potrebbe quasi gestire un hash con i bucket, eccetera, eccetera. Però non so se mi dice, adesso, per adesso è proprio una stable persistente. Cioè se io faccio la put di una stessa cosa, quella di prima va in un limbo, si perde. In Java viene collezionata, no? Da garbage collector, e qui rimane un buco nel database, o dovrò fare un qualcosa che mi fa il pack e viene cancellato, che è l'equivalente alla fine del garbage collector, è la stessa cosa. Ok? Quindi vedete, questo invece è il test proprio dell'indexer, che è capace semplicemente a indicizzare per una stringa vi dà indietro un numero. Quindi questo è il test dell'indexer che io poi utilizzo nello store come gestore degli offset. E poi gli altri sono dei test che ho fatto per imparare un po' meglio l'usin, cioè questi se volete ve li faccio vedere, ma stanno qua semplicemente per lavorare direttamente con l'usin, che non è proprio semplicissimo, ci stanno un po' di cose che se non le apri al momento giusto non funzionano, eccetera, cioè, tutto qua. Quindi questo è la cosa di cui vi ho parlato, lo Swigum database. Adesso vi faccio vedere invece un pezzo di codice di JDBM. Questi sono proprio gli esempi di JDBM, poi vi faccio vedere anche, siccome è un po' molto questo codice strutturato, molto poco oggetti, vi faccio vedere come si può incapsulare in qualcosa di un po' più gestibile. Questo invece è un esempio di utilizzo di JDBM. Si legge? È una cosa un po' orrendamente procedurale. Essenzialmente c'è questo record manager, poi si gestiscono questi named object che sono, questo qua sarebbe il database e questi sono le tabelle, tra virgolette, quindi per fare un parallelismo. Poi con la classe H3, a cui bisogna fare questo create instance, farsi dare rec id, se rec id è 0 che ve l'ha restituito quest'altro, tutta la sua logica è così, proprio l'esempio, se prendete l'hello world è fatto così, insomma alla fine di questa cosa, di questa pratica misteriosa, avete la possibilità di fare dei tree. Questo è il load che carica tutto il database in memoria, cioè ci potete fare delle get e delle put sopra. Quindi è una stable persistente. Ok? Ovviamente questa cosa la potete nascondere dietro un'interfaccia magari fatta bene di collection, una vostra. Io ne ho fatta una, adesso non mi ricordo dove sta. Ne ho fatta una anche col commit, set autocommit, cose di questo tipo, insomma che sembra proprio una cosa carina, poi dietro c'è questo che fa tutti i suoi calcoli con l'interisi, un pitch, eccetera. Insomma alla fine c'è una stable persistente e riesce a gestire. Ecco, questo qua sarebbe la soluzione ottimale se non fosse che, cioè secondo me, insomma la cosa più semplice possibile, è veramente una volta incapsulato, fai praticamente questo H3, lo gestisci come se fosse una stable, ci metti le cose dentro, lui delle ridà, fa il paging e fa tutto il resto. Il problema è che mi sembra che sprechi un po' di spazio, e guardando un po' sui forum ho visto che stanno infatti implementando degli stream per comprimere automaticamente sia le chiavi che i valori, eccetera, però non c'è comunque dentro 1.0, ma sta soltanto nella parte di CVS, non so neanche se funziona. Vabbè, io questo sì. Allora, con Prevailer, te lo farà vedere già Andrea, è comunque uno dei problemi di Prevailer e c'ha un suo sistema per gestire il classic. Con questi altri sistemi mi sembra che forse Berkeley ha qualcosa, Berkeley DB ha qualcosa, però non ci giurerei. gli altri no, avevamo, ovviamente no. Avevamo usato lo stiamo usando anche Gearbox Cache per fare la replicazione del... Mi sembra che Gearbox Cache usa Betty o GDPR. Visto la... Si può appoggiare per la persistenza, quello anche è una persistenza di sì. Però di default mi sembra che utilizza Berkeley, giusto? O GDBR, una delle due. No, se piange Berkeley, ma non è obbligatorio. No, non è obbligatorio, però. Vabbè, tipicamente queste cose sono fatte proprio per implementare sistemi di cache e cose di questo tipo. Se, dipende insomma come lo volete utilizzare. Però certo non è una cosa che la metti se c'è un cluster, eccetera, eccetera. Almeno secondo me. Cioè si perde un po' l'essenza di questa cosa. Io sto facendo un programma, c'ho cioè una stable, quanto mi piacerebbe se fosse persistente, così non devo combattere con un database Berkeley. Almeno per me. Poi Berkeley si spinge un po' più in là, insomma. Se considerate che è JDA compliant, c'ha un connector, quindi lo infilate dentro un application server e quello funziona. Partecipa a transazioni distribuite, commit a due fasi, eccetera, non è proprio un giochino. Però ecco, se passi poi ancora addirittura al database distribuito, insomma forse ti tocca utilizzare un database vero, mo che sia relazionale o meno, poi dipende. No, per esempio un database L da Punk lo puoi distribuire. No, mi domandavo se si potevano sommare delle cose, no? Nel senso che se tu hai diverse macchine che girano sulle applicazioni che usano questa cache condivisa, siccome di fatto tutte le macchine sono vive, hai la garanzia di riallineare tutti quanti, basta che poi uno solo magari vada a scrivere, e si può appoggiare un meccanismo di persistenza più per cache stable sempre no, era sì. Beh, poi là ci stanno sempre i problemi, io so che Jeboss comunque ha dei problemi poi per gestire tante macchine, perché cominciano a essere chatti, tutti parlano con tutti, diventa un po' un problema. Se posso fare un po' di pubblicità, il nostro application server su questa cosa è molto più performante, perché utilizza un database che è inerentemente distribuito, che è un next database, che è una società che acquisimmo qualche anno fa, che fa una cosa eccezionale, che si chiamava Clastra, che era un database completamente, cioè i pezzi del database stanno su macchine diverse e ci sono nodi attivi e passivi, quindi ognuno c'ha una, ogni nodo ha una doppia informazione, quindi tutti i pezzi sono duplicati e praticamente è impossibile che qualcuno si perda qualche cosa. Tu da fuori li vedi, quindi l'approccio è contrario, tu da fuori li vedi con un'unica cosa, in realtà il database sparge i pezzi su diverse macchine. Ognuno gestisce un pezzo o tu puoi interrogare indifferentemente? No, tu lo vedi con cioè un driver JDBC, ci parli, per te è un database composto di 10 nodi, due nodi. Chiaramente più nodi aggiungi e più aumentano i 9 del fault tolerance. C'è una configurazione, non so con quanti nodi, che è garantita con 5 nodi. Cioè perde un minuto ogni... ti può succedere. Ma il problema dell'aumentare delle macchine, della gestione del... ce l'hai lo stesso, sì, però quello fa, quello non te lo devi costruire, insomma questi qua hanno, mi sembra, 100 anni di sviluppo uomo su questa cosa. Cioè, è una cosa molto sofisticata. Infatti di quelle macchine di solito si mettono si devono mettere con doppia scheda di rete. Cioè non deve mai succedere che le macchine non si parlano tra di loro, perché se non si parlano perdono la sincronia. Però non è un ritmo sofisticato, nel senso non è semplicemente una stable, insomma fa un sacco di... cioè i nodi si switchano, si spostano, diventano attivi, passivi, l'informazione se la ridistribuisce, se tu aggiungi un nuovo nodo. Ecco, ho fatto la pubblicità, è partito. Non volevo farlo. Non è un problema, tanto non lo possono prendere, cioè non è un prodotto, dovete prendere l'application server all'interno. Per adesso non è un prodotto, infatti questa è un'altra cosa che mi ha scocciato sempre, però non è un prodotto, cioè sta dentro l'application server. Quindi se tu fai session failover, lui usa quel sistema per farla, ma tu non puoi accedere ai driver JDBC e metterci le cose pure. Quindi c'è il paradosso che potessi fare un'applicazione che va su MySQL, però i dati di sessione stanno su un database che è impossibile da buttare giù, no? Poi i dati veri stanno su MySQL, i dati veri stanno su un database, è così. Questo volevo dire che c'è una particolarità che a me tra tutto, è una cosa che non avevo mai visto a livello di database, perché nasce come database, per dare attenzione. Colombo, guarda, non è un evento marketing, perché ti diranno qualcosa appresso, nel senso. Oh, ma hanno lasciato fare sta pubblicità, no, ma non è inizio. Sono soltanto questo perché è particolare, e forse è la ragione per cui è sparito l'accettazione, che se voi fate caso, database, non c'è nessuno che è capace di riparare un fault hardware, nel senso è un false disco, anche Oracle app e ci vediamo, cioè fai un restore di intercap. Questo addirittura mi costruisce automaticamente quella parte perché ha un mirror. Beh, non è che è un mirror, tutti i dati automaticamente sono, cioè ogni pezzetto di informazione sta in due posti diversi, in due macchine diverse, quindi la probabilità che ti succeda qualcosa di grave, cioè si devono rompere tutte e due le macchine contemporaneamente, ma poi contemporaneamente, ci sono dei nodi che sono spare, quindi se si rompe una automaticamente c'è una che prende il suo posto, quindi per succedere di qualcosa si devono rompere le macchine, i pezzi di disco dove stanno esattamente i due stessi pezzi di informazione nello stesso momento, e quindi questo è capito. Sì, sì. Il numero di stati nodi tendenzialmente uno riesce da 2 a 4, cioè già con 2 si rimette, di solito la cosa ideale è mettere 2 nodi attivi e poi 2 nodi spare, con 2 nodi attivi e 2 spare c'hai una configurazione a 9 9 9 9, non inventarlo, non me lo ricordo, no, ma c'è un limite massimo, mi sembra di no. Mi sembra di no. Lascio la parola. Facciamo, prima di iniziare con il secondo intervento, volevo fare un conto di chi rimane poi per la pizzeria dopo, così facciamo una prenotazione adeguata. Di nuovo le mani. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 video, sappiamo Marco se viene o... Sì, no, ma viene, ha detto che veniva. Allora, ma 13, non è che c'è Alessandro, che siamo 10 a tavola. Una domanda. Sì. Una cosa che senza andare nella complessità di cluster e cosa, però poter tipo questi dati portarli poi fuori su una pagina web, cioè uno fa l'applicazione Cina, l'applicazione piace, per dire che è una carino, da poi butta a dire ma si può. Perché non si può? Sì, no, nel senso, se c'è un'applicazione che serve i dati lì, poi diventa difficile se uno, tra virgolette, poi solitamente pubblica i dati tramite GSP o le solite cose. Beh, però questo è il problema di design, cioè nel senso, anche un database funziona così, lui salva i dati in locale e poi ti espone un'altra faccia di mondo. Infatti, per cui, se l'applicazione Gina riuscisse, tra virgolette, a... cioè, è un problema che è un po'... l'ho schivato, magari, cioè, se tu devi separare in strati fisici, poi sta a te farlo diventare in qualche modo remoto col meccanismo che ti piace di più, con RMI. Se qualcuno aveva già pensato a questa cosa. Berkeley mi sembra che Berkeley c'ha anche l'interfaccia remota. Vabbè, Berkeley è proprio un database vero, non è un database relazionale, però è un database vero. No, mi chiedo se qualcuno di questi aveva già qualche roba su RMI o su. No, ora lui ci parlerà di Prevere, insomma Prevere è abbastanza facile, di poi si realizzare i comandi remoti.